Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Essere gay negli anni 40-50. Riporto qui di seguito, con piccoli adattamenti necessari per rendere la conversazione facilmente comprensibile, un'intervista registrata il 14 gennaio del 2005. Veniamo subito all'intervista. Dunque, allora, io mi chiamo Armando, sono del 32, tengo 73 anni, sono meridionale di Foggia. I miei contadini erano, insomma, non è che se la passavano tanto bene. Eravamo quattro figli, papà lavorava in campagna, tenevamo un pezzo di terra e campavamo così, sai, le galline, tenevamo il maiale, i fichi, un po' di grano, e si campava. Quando io facevo la terza elementare si è scoppiata la guerra, che io stavo da una zia a Foggia per studiare e si è cominciato i guai. Soldi, niente. Quelli che facevamo in campagna ce lo portavano via all'ammasso. Galline non ne tenevamo più. Papà è andato in Africa e non ne abbiamo saputo più niente. Che mica era come adesso, che stanno tutte telefonine, allora non c'è stato proprio niente. Papà è morto nel 42 in guerra, ma noi l'abbiamo saputo solo alla fine del 43, quando io tenevo 11 anni. Mamma, povera donna, che quel che poteva fare? Che noi quattro eravamo, quello si ammazzava in campagna e poi la sera faceva le maglie. Ma noi non è che tenevamo tanto da mangiare, e poi sai, fino al 46 stiamo proprio male. Abbiamo fatto proprio la fame. Io alla scuola non c'era andato più e avevo cominciato pure a lavorare in campagna, e però si campava male. Dopo il 46, quando sono venuti gli americani, le cose sono cambiate un poco. Ma c'era pure tanta miseria. Allora, nel 46, quando tenevi 14 anni, né che mi potevo mettere a pensare all'amore. E che si doveva campare allora, capito? Questa era la cosa. Io proprio non ci pensavo a tutte le altre cose. Nel 48, quando tenevo 16 anni, e che allora ho passato proprio l'esperienza brutta. Ma non so se te la devo dire o no, ma insomma, stavo là uno dei capi di quelli dei contadini della campagna, insomma. Quando stavamo a lavorare in campagna, questo prima mi aveva dato una pagnotta, poi una fiasca di vino, e poi voleva che io andavo con lui, insomma, tu hai capito, no? Ma io non ci volevo andare. E allora sono venuto lui e altri due, e non c'è stato niente da fare, ci sono dovuto stare a forza. Mi hanno caricato di botte e poi mi hanno fatto quello che volevano loro. Madonna mia, come mi sono sentito dopo. Ma manca i cani, una cosa simile, quelle erano peggio delle bestie. Io tenevo paura, ma quello ti potevano proprio ammazzare. E io non sapevo proprio che fa. E che fa? Torno a casa e lo dice a mamma. Ma tu te lo immagini? Ma io poi, là non ci volevo tornare più. Volevo andare ai carabinieri, ma tenevo paura che poi quelli si vendicavano sulla famiglia mia, hai capito? E quello lo facevano, eh? E non l'ho denunciato. E mi è dispiaciuto proprio tanto, ma io una soluzione la dovevo trovare. Ma tenevo solo 16 anni, allora sapevo che c'era uno del paese di papà, un mezzo parente nostro, che teneva una cava di tufo, e l'ho detto a mamma per non farla preoccupare, e me ne sono andato a piedi fino al paese. Ho fatto 40 chilometri a piedi e sono andato fino alla cava, insomma. Là stava una polvere che non ti dico, sai, come è stato allora. E quello mi ha pigliato a lavorare. Ma io pigliavo meno di quello che pigliavo quando facevo a zappa in campagna. Però era una gente onesta. Da mangiare non ce ne stava per nessuno. Ma io là dentro di quello piccolo, quello giovane, no? E allora, quelli che potevano gli altri, se potevano, se me lo davano a me. E io campavo così. Uno di là dentro, pensa, non lo so, ma pensi che uno di là dentro pure mi aveva messo gli occhi addosso, ma era una cosa completamente differente. Qualche cosa c'era, mi trattava bene, ma non è che mi fate proposte, cose strane, niente di te. Insomma, forse io pure un poco di corda gliel'avevo data, ma insomma, non è successo proprio niente. E che potevo pensare all'amore in un posto come quello? Qualcuno là, qualcuno degli operai, era pure un bel ragazzo, però che vuoi fare? Mica tu poteva rischiare. Ah, una cosa, io ero gay. Ma che parole che ci siamo imparate, che sei tutta roba americana. E vabbè, insomma, ero gay pure prima che quelli facessero quello che hanno fatto loro, hai capito? Ma io non avevo dato mai corda a nessuno quando stavo in campagna. Quelli erano proprio loro che erano delinquenti. Ma alla cava non è stato proprio così. Là qualcuno un poco di corda che gliel'avevo pure data. Io stavo sempre solo, che poi alla cava quelli che tenevano famiglia la sera se ne tornavano a casa e quelli come a me stavano là pure la notte. Ci stava un capannone della Viera e stavamo là tutto quanto. Ma eravamo quelli giovani, 18-20 anni così. Allora, insomma, tu qualche cosa pure la potevi vedere, che non è che si vergognavano tanto, però insomma, non è che ti potevi mettere a fare le cose tue in faccia a tutti. Quando dovevo fare quello che tutti i ragazzi lo fanno, hai capito? Tu te ne devi andare fuori la notte, dicevi che devi andare a fare bisogno e te stavi fuori 4-5 minuti. Così era, insomma. Sono stato 7 anni a lavorare alla cava, fino a 23 anni. Nel frattempo i fratelli miei si sono fatti grandi, quelli erano tutti più grandi di me. Io ero il più piccolo e lavoravo già. Allora ho sentito che si poteva andare a lavorare al nord, era, ma pare, sì, l'estate del 55, io non tenevo né arte né parte, non sapevo fare proprio niente, ma ci stava uno di Milano che stava cercando persone per lavorare là, che lui teneva una fabbrica. Allora mi sono legato la valigia di cartone e me ne sono partito a Milano. Allora poi, sai, arrivare da Foggia a Milano era come andare al Polo Nord. Arrivo là, una cosa che non capivo niente. Me ne vado all'indirizzo della fabbrica di quel signore. Quella era una fabbrica vera. E chi ti trovi che faceva la fila davanti alla porta? Questo mi ti trovi, a papini mia. Io ne ho 23 anni e lui 21. Era appena appena maggiorenne, che allora si diventava maggiorenne a 21 anni. Me lo guarda, lui mi guarda e mi fa un sorriso. Madonna mia, che là nessuno mi aveva fatto un sorriso. E lo vedi come siamo noi. Io sono proprio meridionale e lui era un ragazzo del nord, biondo, con gli occhi chiari, io non l'avevo mai visto uno così, un tedesco sembrava, ma insomma era bello, va. Ma il resto te lo fai raccontare da lui. Dunque, io mi chiamo Giuseppe, ho 71 anni, portati male. Sono nato in un paesino vicino a Padova. E allora il Veneto, non era mica il Veneto di oggi. Allora c'era proprio la miseria nera. Io sono del 34, eravamo 9 figli, ero il quinto, proprio quello di mezzo. Ma nel 44 la famiglia mia è stata distrutta, ma mica dalla guerra, dalla polmonite. È morta mamma e quattro fratelli, due più grandi e due più piccoli di me. Mio padre era morto 2 anni prima e io a 10 anni sono andato a fare il garzone di latteria per guadagnare due soldi. Partivo la mattina prestissimo alle 5, dovevo accompagnare il padrone che andava per le stalle a raccogliere il latte. In pratica per me c'era una cosa sola, solo lavorare, niente di altro. A 16 anni mi era sembrato che mi piaceva una ragazzina, ma io non capivo niente. Vedevo che lo facevano tutti e pensavo che lo potevo fare anch'io. Insomma, quando lei mi ha detto che ci sarebbe stata, io le ho risposto che era una ragazza che a me non mi piaceva tanto perché io volevo una ragazza illibata. Insomma, facciamola corta. È stata la prima balla che ho raccontato, perché io l'avevo visto che non mi tirava mica a pensare alle ragazze, mentre invece a maschietti sì. Vabbè. allora una cosa interessante c'era. Da noi c'erano queste cose, certo, che i ragazzi andavano tutti a fare il bagno al fiume e lì costume non ce n'era, o almeno molti non ce l'avevano. Si faceva una ruotata, poi ci si asciugava al sole e non erano mica tutti i ragazzini piccoli, no no, c'era dai 16 ai 20 pure più. Praticamente sono stati gli anni più belli della vita mia. Lavoravo da cani, mi pagavano poco, ma di ragazzi nudi ne vedevo tutti i giorni. Certo, devo stare attento, perché tu lo sai, che succede quando ti trovi in una situazione del genere. Beh, vabbè, ma io mi ero organizzato bene, insomma, guardavo senza farmi vedere. C'erano proprio i posticini miei, me li ero proprio studiati. Vabbè, che vuoi fare? Se c'è la spinta, si aguzza l'ingegno. Poi nel 55 mi ha mandato a Milano e lì noi ci siamo incontrati. Ecco, in breve è questa la storia. È chiaro, anche a Milano sempre la vita dei morti di fame abbiamo fatto, perché eravamo in quattro in una stanza, quei letti a castello, la sveglia alle 5 del mattino e rientra a casa, se poi quella la potevi chiamare a casa, alle 5 del pomeriggio. In pratica vivevi solo la domenica, il resto lavoravi e basta. Ma lo vede, ma come si è fatto vecchio quello là? Ma quello, quando doveva uscire con me, si faceva bene bene la barba, si metteva a posto i capelli. Che allora, cioè le vicine portare cortissimi, perché la fabbrica di capelli lunghi non li potevi tenere. E si è comprato pure una bottiglietta di lavanda, una piccola che costava poco, però sembrava tutto profumato. E qualche volta andava pure al cinema. Usciamo tutte le domeniche e stavamo a chiacchierare tutte le sere. Ma prima di arrivare a capirci ce l'abbiamo messa, ci è voluto più di un anno. Allora era molto difficile, molto difficile. E la storia, insomma, l'ha cominciata lui. Lui si credeva che era uno molto fine e se ne è uscito proprio così, secco secco. Mi ha detto: ma tu per quelle cose là come fai? E io non ho capito niente. Avevo pensato per fare i bisogni. E gli ha detto che andava alla latrina, che quando ci sta la necessità uno non è che si può trattenere e andare e basta. E allora lui mi ha detto: cioè, ma quando lo fai a che cosa pensi? E io a che cosa devo pensare? E io non lo so, ma tu quando vai al gabinetto a che cosa pensi? E allora lui mi dice che lui quando lo faceva pensava a un bel ragazzo. E dice: ma questo che dice? Forse è un poco fuori cervello. Poi mi ha detto: ma tu non è che quando lo fai per caso pensi alle ragazze? E allora l'amma si è accesa la lampadina. E allora ho capito. L'ho guardato fisso fisso e gli ho detto: non ho capito bene, scusa, puoi ripetere? E lui mi ha detto: niente, niente, è cosa di niente. E allora gli ho preso la mano e gliel'ho stretta e gli ho detto: Peppi, e a quale ragazzo pensi quando fai quelle cose? E lui si è fatto rosso che pareva un peperone, mi ha detto: e quello sei tu, però. E stavo cominciando col però, che quello è l'uomo dei però, ce lo schiaffa sempre da qualche parte. E io gli ho detto: e lo sai a che penso io quando faccio quelle cose? Lui mi ha detto: a me? E qua ho fatto proprio una cosa da delinquente, ho detto: no. Madonna mia, come ci è rimasto male. Però poi gli ho aggiunto super: però da oggi comincio a pensare a te. Se sta bene a te. E lui mi ha detto: ma veramente? E io gli ho stretto la mano forte forte. Così è successo. Mo però facciamo una pausa, ripigliamo dopo. Mo mi sono stancato un poco. La vuoi una cosa da bere? Grazie. Dunque, allora, adesso se vuoi ripigliamo. Allora, a Milano la vita nostra è come volevi che fosse. Noi soldi non lo tenevamo proprio, si campava, ma non è che si poteva pensare a fare altro. Alla stanza dove stavamo eravamo in quattro. Quello che ci mancava a noi era di potercene stare un poco per i fatti nostri, che noi pure ce ne avevamo bisogno, non è che volevamo fare chissà che cosa, però almeno un bacetto glielo volevo dare. Però non si poteva fare neanche quello. E poi noi allora parlavamo tanto, pure di sesso, sì, pure di sesso. E perché, sai, lui mi raccontava tutte quelle cose di quando andavano al fiume con i compagni suoi. Sai com'è? non è che sia una cosa che ti lasciano proprio indifferente. Io sapevo che lui con me ci sarebbe stato, come lui sapeva che ci sarei stato io, ma proprio non tenevamo il posto. Che poi a noi metterci a fare certe cose dentro ai gabinetti non ci piaceva proprio. Che è quello pure, come ti voglio dire, pure per fare un poco di sesso ci vuole un poco di tranquillità. Non è che fai una cosa correndo, correndo. Ci vuole pure un poco di tenerezza, insomma, ci si deve pure coccolare un pochettino, no? Allora ci è venuta l'idea di andare a starcene per conto nostro. Noi non volevamo prendere una stanza in casa di altre persone. Noi volevamo una casetta, pure piccola, piccola, ma una cosa nostra, una stanzetta sola. Ma quando chiudi la porta ci deve stare solo tu. Prima abbiamo visto un po' in giro, poi si è liberato un appartamentino che era proprio un buchetto, una cosa che l'avevano ricavata all'ottavo piano togliendo le fontane al lavatoio, che prima a quella casa là il lavatoio stava sul tetto. L'ascensore non ci stava, ma noi allora eravamo giovani e 8 piani di scale si potevano pure fare. La cameretta era piccola, ma tutto attorno ci stava la terrazza condominiale e non ci veniva mai nessuno. Allora abbiamo fatto il contratto, che coi soldi ci stavano proprio pelo pelo, e poi ci siamo trasferiti là. E quello era il paradiso nostro, che noi per quello ce l'eravamo presa una casetta là sopra. E mo che ti devo raccontare? E mo mi metto a disagio. Insomma, facevamo le cose nostre, e vabbè, facevamo quello che si fa. La cosa più bella non era nemmeno il sesso, no. La cosa più bella era quando faceva freddo l'inverno, che là faceva un freddo da morire, le finestre non chiudevano bene, il riscaldamento non ce ne stava. Che oggi nemmeno se l'immaginano noi come facevamo. Ci mettevamo là dentro il letto e mettevamo sopra i cappotti e tutti i vestiti pesanti e ci abbracciavamo stretti stretti. Beh, poi stava pure il resto, è ovvio, no? Però era pure bello stare abbracciati, ma proprio per sentire meno freddo. Che Peppino allora era proprio bello, mo che vuoi fare, si è fatto vecchio, ma allora era proprio bello, che lui è del nord e a me i ragazzi come a lui mi sono sempre piaciuti tanto. Ma insomma te l'abbiamo detta la storia, mo con queste cose lasciamo perdere, va. Di la scuola? Ah, sì. Dunque, a un certo punto mi pare che era il 63 o il 64, insomma è uscita una legge che si poteva fare alla scuola media pure se lavoravi. Si faceva un corso la sera e poi insomma si faceva l'esame e noi l'abbiamo fatta. Andavamo alla scuola la sera quando non ci stavano i ragazzini, c'erano i professori che ti spiegavano le cose e alla fine abbiamo pigliato la terza media. E là un po' che le cose sono cambiate. Io al 64 tenevo 32 anni e lui teneva 30. E non è che eravamo poi tanti giovanotti, però insomma la terza media ce l'avevamo pigliata. E allora ci è venuto in mente di fare la scuola serale di perito elettrotecnico. Noi pensavamo che era una cosa come la terza media, ma allora si studiava. Insomma, siamo stati 5 anni che la sera ci andavamo a scuola, appena finito di lavorare stavamo là fino alle 11. Era difficile. Certe volte siamo stati a studiare a cercare di capire, ma non si capiva proprio. Mo te la faccio breve. Alla fine il diploma ce lo siamo pigliato. Era il 69. Allora ancora i pezzi di carta valevano. E la ditta nostra abbiamo portato questi pezzi di carta, insomma, e ci hanno passato periti. E lo stipendio era tutta un'altra cosa. E allora ci è venuto in testa che la casa ce la volevamo pure comprare, ma non quella, ma una un poco meglio, una di due stanze. E l'abbiamo pigliata. E come ha voluto dire, l'abbiamo pure pagata, che non è mica tanto che abbiamo finito di pagare. Poi sai, erano i mutui vecchi, c'è stata la svalutazione, e non era una cosa così pesante da pagare. E mo che ti devo dire, della vita che facciamo adesso, con l'aiuto di Dio, non ci possiamo tanto lamentare. Ma se la gente l'ha capito o non l'ha capito come stanno le cose nostre, ma quello non è che te lo dicono, ma sai, se non sono stupidi, non è mica così difficile. Però io penso che l'hanno capito. Ma a noi nessuno ci ha mai rotto le scatole. Abbiamo fatto la vita nostra e basta. Certo, non è che andiamo abbracciati in mezzo alla strada. Poi ci siamo fatti vecchi e ce ne siamo andati in pensione. E mo si sopravvive, come Dio vuole, neanche tanto male. A noi non ci manca niente. Certo, le preoccupazioni per il futuro ci stanno, figlia mia. Come fai a non avere timore per il futuro? Noi vecchi siamo. Un po' di salute ancora ci sta, ma piano piano se ne sta andando pure quello. Guarda, a me non è che mi fa paura tanto la morte quando vede che prima o poi o io o lui dobbiamo restare soli. Allora quello è peggio della morte. Ma come faccio io a campare senza papina? Non è possibile proprio. Noi tutta la vita siamo stati insieme e mo speriamo il Padre Eterno ci deve fare morire insieme. Non è una cosa strana. Io con Peppino ci ho passato la vita, proprio la vita. Non è una cosa solo di sesso, noi abbiamo fatto tutto insieme e ora vogliamo pure morire insieme, se il Padre Eterno ci fa la grazia. Solo quello preghiamo noi, la vita bella l'abbiamo fatta, mo' è ora che ci mettiamo da parte. Ma dimmi un poco, ma tutta questa storia che ci deve fare? Perché quello non serve a niente, quello è importante per me e per Peppino. Beh, comunque, fanno quello che vuoi tu. Non so se posso, ma vi vorrei chiedere un'ultima cosa. Ma Peppino come ha reagito al fatto che sei stato violentato? Io non sapevo come dirglielo, ma in un modo o nell'altro glielo dovevo pure dire, insomma, poi alla fine gliel'ho detto. Ma perché tutti quelli che ci conoscono ci fanno sempre la stessa domanda? Io ho pensato a come deve essere stato lui in una situazione simile. A come ci sarei rimasto io se fosse capitato a me quando me l'abbracciavo? Pensavo che dovevo farlo sentire bene, tutto qua. Ma ci stanno i delinquenti e non ci puoi fare niente, ci stanno e basta. Peppi, digli la storia di quel ragazzo, va? Certo. E dunque, quando noi eravamo grandi, 40 anni più o meno, ci hanno detto che un ragazzo che faceva la vita, cioè che batteva, ma che l'avevano picchiato di brutto, questo ragazzo era non so che mezzo parente di uno che lavorava con noi alla fabbrica, e quello che ci ha detto che non sapeva dove mandarlo perché a casa sua non lo poteva portare perché aveva i figli ragazzi e non voleva che stessero a contatto con quello. Insomma, ce lo siamo preso noi. C'aveva 21 anni, era maggiorenne per fortuna, è venuto a star da noi regolarmente. Gli abbiamo dato l'altra stanza, insomma, era un bravo ragazzo. Nei primi tempi aveva paura di noi, si pensava chissà che cosa, poi quello che temeva lui non è mai successo, allora si è affezionato. Abbiamo fatto tutta una famiglia, poi sai, pian piano gli abbiamo trovato un posto noi, alla fabbrica, e si è messo a studiare, ha finito gli studi. Pensa che quando l'hanno pestato stava al terzo anno di filosofia, che uno così era pure un bel ragazzo, ma come gli poteva venire in testa di andarsene in giro di notte? Ma lui pensava solo ai quattrini e sì, così era. Però insomma, si è laureato e se n'è andato a insegnare nelle scuole e noi abbiamo fatto finta di essere due genitori e siamo andati a trovarlo a scuola. Ma che bel professorino che era! Con la giacchetta, con gli occhialetti, ma proprio serio, serio. Adesso c'ha quasi 50 anni e sta con un amico suo. E un po' come siamo stati noi, ecco. Ogni tanto ci sentiamo, quindi un po' siamo stati pure papà. Era dura prima, eh? Senza Armando, ma lo sai che fine facevo io? Ma state zitto, ma sempre a delle stupidaggini stai. Che se non ci stavi tu io adesso dove stavo? Ma va bene, va, adesso basta con questa cosa. Chiudi, chiudi. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal corpo.